Durante il ritorno, la ristrettezza del coupé fece sì che quelle scarpette rosse si trovassero inevitabilmente a breve distanza dalle mie, e Madame de Grammont, temendo che le avessero addirittura sfiorate, disse al duca: «Questo giovanotto sarà costretto a supplicare, come in non so più quale caricatura, signora, giuratemi subito che mi amate, ma non pestatemi i piedi in questo modo». I miei pensieri, peraltro, seguivano un corso abbastanza lontano da Madame de Grammont. Da quando Saint-Loup mi aveva parlato di una fanciulla d'alto lignaggio che frequentava una casa d'appuntamenti e della cameriera della baronessa Putbus, era in queste due persone che, facendo un tutt'uno, s'erano condensati i desideri ispiratimi quotidianamente da numerose beltà di due categorie. Da una parte, le volgari e magnifiche, le maestose cameriere di grandi casate, quelle che gonfie d'orgoglio dicono «noi», parlando delle duchesse. Dall'altra, le fanciulle di cui mi bastava a volte, senza nemmeno averle viste passare in carrozza o a piedi, leggere il nome nella cronaca d'un ballo per innamorarmene all'istante, e dopo aver cercato coscienziosamente nell'annuario dei castelli dove passassero l'estate, lasciandomi fuorviare spesso dall'assonanza d'un nome, per mettermi a fantasticare di raggiungerle volta a volta nelle pianure dell'ovest, nelle dune del nord, nelle pinete del mezzogiorno. Ma avevo un bel fondere tutta la materia carnale più squisita per comporre, secondo il modello ideale tracciatomi da Saint-Loup, la fanciulla leggera e la cameriera di Madame Putbus. Alle mie due abbordabili beltà mancava qualcosa che avrei ignorato sinché non le avessi vedute: il carattere individuale. Invano mi sarei sfinito a cercare di figurarmi, durante i mesi in cui il mio desiderio s'appuntava piuttosto sulle fanciulle, come fosse fatta, chi fosse, quella di cui m'aveva parlato Saint-Loup, e durante i mesi in cui avrei preferito una cameriera, quella di Madame Putbus. Ma che tranquillità, dopo essere stato ininterrottamente tormentato dai miei inquieti desideri per tanti esseri fuggitivi di cui spesso non sapevo neanche il nome e che era comunque così difficile rintracciare, ancor più conoscere, impossibile forse conquistare, aver prelevato da tanta bellezza sparsa, fuggevole, anonima, due campioni di qualità, muniti ciascuno della sua scheda segnaletica, che ero sicuro, almeno, di potermi procurare quando avessi voluto. Rimandavo l'ora di dedicarmi a questo duplice piacere, come quella del lavoro, ma la certezza di poterne disporre a mia discrezione mi esentava quasi dal coglierlo, come quei sonniferi che ci basta tenere a portata di mano per non averne più bisogno e addormentarci. Non desideravo più, in tutto l'universo, che due sole donne, di cui non riuscivo, è vero, a raffigurarmi il volto, ma di cui Saint-Loup mi aveva detto il nome e garantito la disponibilità. Di modo che, se con le sue parole di poco prima Robert aveva imposto un duro lavoro alla mia immaginazione, egli aveva per contro assicurato un'apprezzabile distensione, un durevole riposo alla mia volontà. «Dunque», mi disse la duchessa, «a parte i vostri balli, non posso proprio esservi utile in nulla. Non c'è nessun salotto dove vi piacerebbe che vi introducessi?» «Temevo», le risposi, «che il solo di cui mi importava fosse troppo poco elegante per lei». «Chi è?» chiese con voce minacciosa e rauca, quasi senza dischiudere le labbra. «La baronessa Putbus». Simulò stavolta un'autentica collera. «Ah, no! Questo è davvero troppo! Ho l'impressione che mi stiate prendendo in giro. Non so nemmeno per quale fortuita combinazione io conosca il nome di quella strega. Ma è la feccia della società! È come se mi chiedeste di presentarvi alla mia merciaia! E poi neanche, perché la mia merciaia è incantevole. Siete un po' folle, ragazzo mio. Comunque, fatemi la cortesia d'essere gentile con le persone che vi ho presentate, di lasciare loro il vostro biglietto da visita, di andarle a trovare e di non fiatare sulla baronessa Putbus, che nessuno ha mai sentito nominare». Le chiesi, se Madame d'Orvilé non fosse un po' leggera. No, di certo, la state scambiando per un'altra, anzi, è piuttosto santarellina. Non è vero, Bazin? Sì, in ogni caso non credo che ci sia mai stato niente da dire sul suo conto, confermò il duca. Che ne direste di venire con noi alla festa? Gli propose subito dopo. Potrei prestarvi un mantello veneziano e so per certo che c'è qualcuno a cui farebbe maledettamente piacere. Prima di tutto Orian, questo va da sé, ma anche la principessa di Parma. Non fa che cantare le vostre lodi, non vede che con i vostri occhi. Per vostra fortuna, essendo un po' stagionata, è d'una pudicizia assoluta, altrimenti v'avrebbe preso sicuro come Cicisbeo, si diceva così all'epoca della mia giovinezza, una specie di cavalier servente. Non era quella festa che mi interessava, ma l'appuntamento con Albertine, e così rifiutai. La carrozza s'era fermata, il lacchè diede ordine di aprire il portone, i cavalli scalpitarono finché non fu spalancato e la carrozza si infilò nel cortile. «Arrivederci», mi salutò il duca. «Mi dispiace certe volte di abitare così vicino a Marie», mi disse la duchessa, «perché se amo lei, amo un pochino meno la sua compagnia. Ma non m'è mai dispiaciuto tanto come stasera, visto che per colpa di questa vicinanza sono rimasta così poco con voi». «Andiamo, Orian, basta chiacchierare». La duchessa insisteva perché entrasse un momento da loro. Rise di gusto, e anche il duca, quando spiegai che non potevo perché aspettavo la visita di una fanciulla. «Ricevete in ore alquanto insolite», commentò Madame de Germain. «Su via, cara, sbrighiamoci», intervenne il duca rivolto a sua moglie. «Manca un quarto a mezzanotte, è il tempo di metterci in costume». Sulla porta, che esse stavano severamente sorvegliando, fu bloccato dalle due dame col bastone, le quali non avevano esitato a scendere nottetempo dalla loro cima al fine di impedire uno scandalo. Ma perché? «Bazin, abbiamo tenuto ad avvertirvi. Temevamo che vi faceste vedere a quella festa. Il povero Amanian è morto un'ora fa». Il duca visse un istante di panico. Vedeva il famoso ballo in maschera sbriciolarglisi davanti, ora che quelle dannate montanare l'avevano informato della morte del signor Dosmond. Ma si riprese ben presto e lanciò alle due cugine questa battuta nella quale la sua determinazione di non rinunciare a un piacere si intrecciava alla sua incapacità d'assimilare esattamente le peculiarità della lingua francese. «Morto? Ma via, non esageriamo, non esageriamo!» E senza più occuparsi delle due parenti che, munite dei loro alpenstock, si accingevano all'ascensione notturna, si buttò a interrogare per le ultime notizie il suo cameriere. «Il mio elmo è arrivato?» «Sì, signor duca». «C'è un buchino per respirare?» «Diamine, non voglio mica morire asfissiato». «Sì, signor duca». «Ah, maledizione, è proprio una sera disgraziata. Orian, mi sono dimenticato di chiedere a Babal se le scarpe alla polacca andavano bene per voi». «Ma caro, visto che c'è il costumista dell'Opéra Comique, sarà lui a dircelo. Personalmente dubito che possano conciliarsi con i vostri speroni». «Andiamo dal costumista», concluse il duca. «Addio, ragazzo mio. Vi direi di entrare con noi mentre proviamo per divertirvi, ma ci metteremo a chiacchierare, è quasi mezzanotte, non possiamo arrivare in ritardo. Rovineremo la festa». Anch'io avevo fretta di lasciarli. Fedor finiva verso le 11:30. Calcolando il tempo del tragitto, Albertine doveva essere già arrivata. Andai di corsa da Françoise. «La signorina Albertine è arrivata?» «Non è venuto nessuno». «Dio mio! Ciò significava che non sarebbe venuto nessuno?» Ero sulle spine. La visita di Albertine mi sembrava adesso, essendo meno certa, tanto più desiderabile. Anche Françoise era seccata, ma per una ragione ben diversa. Aveva appena fatto accomodare a tavola sua figlia per un pasto succulento. Ma sentendomi venire e considerando che non avrebbe fatto in tempo a togliere i piatti e disporre aghi e fili come se si trattasse di un lavoro di cucito e non di una cena, «ha preso una cucchiaiata di zuppa», mi disse. «L'ho costretta a succhiare qualche osso». per ridurre così ai minimi termini la cena della figlia, e come se la sua abbondanza fosse colpevole. Anche a colazione o a pranzo, se commettevo l'errore di entrare in cucina, Françoise fingeva di aver già finito e addirittura si scusava dicendo: «Avevo pensato di mangiare un boccone, oppure una forchettata». Ma si era subito rassicurati vedendo la moltitudine dei piatti che coprivano la tavola e che Françoise, sorpresa come quel malfattore che non era, dal mio ingresso improvviso, non aveva avuto il tempo di far sparire. Poi aggiunse: «Su, va a letto, hai lavorato abbastanza per oggi». Voleva farci credere infatti non solo che sua figlia non ci costasse niente e vivesse di privazioni, ma anche che s'ammazzasse di lavoro per noi. «Non fai che ingombrare qui in cucina, soprattutto dai fastidio al signore che aspetta visite. Coraggio, sali!» Riprese come se fosse costretta a ricorrere all'autorità per mandare a letto sua figlia, la quale, una volta sfumata la cena, se ne stava lì solo per figura, e se io fossi rimasto altri 5 minuti avrebbe sloggiato di sua iniziativa e, appellandosi a me, con quel suo bel francese popolaresco e tuttavia un po' personale: «Lo vede anche il signore che ti casca la faccia dal sonno». Ero felice di non dovermi intrattenere con la figlia di Françoise. Ho già detto che era d'un paesino vicinissimo a quello della madre e tuttavia diverso per la natura del terreno, le coltivazioni, il dialetto, soprattutto per certe particolarità degli abitanti. Così la macellaia e la nipote di Françoise si intendevano pochissimo, ma avevano questo in comune: quando andavano a fare una commissione, restavano per ore dalla sorella o dalla cugina, essendo costituzionalmente incapaci di por fine a una conversazione, conversazione nel corso della quale il motivo che aveva determinato la loro uscita si dileguava a tal punto che se al ritorno si chiedeva loro: «Allora, il signor Marchese di Norpois potrà ricevermi alle 6:15? Non si sognavano nemmeno di battersi la fronte, non rispondevano: «Ah, me ne sono dimenticata», bensì: «Ah, non avevo capito che il signore voleva questo, credevo di dovergli soltanto portare i suoi saluti». Se andavano in oca a quel modo per una cosa detta un'ora prima, in compenso non c'era verso di togliere loro dalla testa ciò che avevano sentito dire una volta dalla sorella o dalla cugina. Così, se la macellaia aveva sentito dire che gli inglesi ci avevano fatto la guerra nel 70 assieme ai prussiani, ogni 3 settimane, per quanto io m'affannassi a confutare una simile falsità, lei, attaccando discorso, tornava a ripetermi: «È tutta colpa di quella guerra che ci hanno fatto gli inglesi nel 70 assieme ai prussiani». «Ma se vi ho detto 100 volte che vi sbagliate!» E lei, lasciando intendere che la sua convinzione non s'era spostata d'un millimetro: «Comunque non è una buona ragione per avercela con loro. Dal 70 ne è passata di acqua sotto i ponti». Un'altra volta, auspicando una guerra contro gli inglesi che invece io deprecavo, osservava: «Certo, niente guerra del tutto sarebbe l'ideale, ma dato che non se ne può fare a meno, meglio non star lì a pensarci». Come spiegava poco fa la sorella: «Dopo quella guerra che ci hanno fatto gli inglesi nel 70, i trattati commerciali ci rovinano. Quando li avremo sconfitti, non lasceremo più entrare in Francia un solo inglese senza fargli pagare 300 franchi di ingresso, come noi adesso per andare in Inghilterra». Tale era, in aggiunta a una grande onestà e quando parlavano a una sorda ostinazione nel non lasciarsi interrompere, nel ricominciare 20 volte dal punto in cui li si era interrotti, il che finiva col dare ai loro discorsi la solidità incrollabile di una fuga di Bach, l'indole degli abitanti di quel paesino, che ne contava meno di 500 e che tutto intorno aveva i suoi castagni, i suoi salici, i suoi campi di barbabietole e di patate. La figlia di Françoise, invece, credendosi una donna moderna e affrancata dai vecchi modelli, parlava l'argot parigino e delle annesse spiritosaggini non se ne lasciava scappare neanche una. Saputo da Françoise che venivo dalla casa di una principessa: «Ah, la principessa delle noccioline, suppongo». Vedendo che aspettavo una visita, finse di credere che mi chiamassi Gianni. Replicai ingenuamente che si sbagliava, consentendole di piazzare un «ah, pensavo», e mi dicevo: aspetta, aspetta, che barba, Gianni. Non era al massimo del buon gusto, ma rimasi meno indifferente quando, per consolarmi del ritardo di Albertine, mi disse: per me potete stare ad aspettarla per l'eternità, tanto non verrà più. Ah, queste fraschette del giorno d'oggi. La sua parlata si differenziava così da quella della madre, ma il particolare più curioso è che la parlata della madre non era a sua volta la stessa della nonna, nativa di Bayeux-le-Pin, paese che pure distava pochissimo da quello di Françoise. I due dialetti differivano leggermente, come i rispettivi paesaggi. Il paese della madre di Françoise, che sorgeva su un'altura digradante verso un burrone, era ricco di salici. Per contro, esisteva in Francia, lontanissimo da lì, una piccola regione in cui si parlava un dialetto quasi identico a quello di Méséglise. Scoprirlo fu per me tutt'uno col provarne fastidio. Una volta, infatti, trovai Françoise in grandi conversari con una cameriera del nostro stesso stabile, che era di quel paese e parlava quel dialetto. Si capivano discretamente, io non le capivo affatto, loro se ne rendevano conto, ma anche così non smettevano, ritenendosi giustificate dalla gioia d'essere compaesane pur essendo nate tanto lontano l'uno dall'altra, di parlare davanti a me quella lingua straniera, come si fa quando non si vuole essere capiti. Questi pittoreschi studi di geografia linguistica e di solidarietà ancillare proseguirono ogni settimana in cucina senza procurarmi alcun diletto.